Así está la cosa partida, pervertida, la vida convertida. Onda Rossa 87.9, sono le 19:26, inizia il Mezzedes del lunedì con 10 minuti di ritardo, però insomma non possiamo mai prevedere quanto durano le corrispondenze, ovviamente quando si parla con compagni e compagne che ci raccontano le loro lotte. Oggi una giornata di memoria. Una giornata di memoria per Carla Maria Cammarata, e molti si ricorderanno di lei, alcuni magari no, e quindi vi raccontiamo chi era Maria Cammarata, soprannominata Marinella, insomma per tante compagne la ricordano così. Marinella fu stuprata il 6 marzo del 1988, quindi stiamo parlando di 30 anni fa. Nel 1988 da 5 uomini e nei pressi di Piazza Navona di notte, mentre lei stava andando a casa di un amico. Oggi vogliamo parlare di lei perché è stata una vicenda che ha colpito tantissimo anche la storia del femminismo romano, del femminismo tutto, del movimento romano, insomma. Voi poi mi aiuterete, e ovviamente ha attraversato veramente tantissimi contesti. Potremmo fare un inizio raccontando brevemente la storia. Verso l'una di notte un brigadiere insieme in compagnia di due amici transitava in vicino Piazza Navona e vede semi nascosti in una Fiat Panda parcheggiata in un angolo buio contro il muro tre giovani che davano con le spalle alla piazza. Insospettito, il brigadiere si avvicina e, aiutato dai suoi amici, dichiara: bloccavo i tre giovani. Prima ne afferra uno, poi un altro, li costringe ad uscire dalla strettoia tra la panda e il muro dove si erano infilati, e solo allora vede le loro nudità, nota il sangue che li macchia e scorge la ragazza, dichiara, semi sdraiata a terra, insanguinata, piangente e seminuta. Quella ragazza era Marinella. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros y despertarnos de nuestra propia tumba, como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno, lo máximo, quien nos dará el diagnóstico, todos aquí esperando el próximo pronóstico. Marinella a quel punto viene portata in stato di shock, viene portata in ospedale dagli agenti, scatta la denuncia, lei non, all'inizio non si fa visitare e denuncia solo inizialmente lo stupro, insomma non voleva ritrovarsi, magari come tante donne ancora non si vogliono ritrovare in una situazione processuale pesante, in cui si sa che ancora oggi il processo non lo subiscono i stupratori ma lo subiscono le donne violentate. Quindi insomma se ne va dall'ospedale, viene contattata il giorno dopo, viene portata in questura, sono identificati tre giovani e vengono immediatamente arrestati, mi sembra, e parte la procedura d'ufficio. Parte la procedura d'ufficio e inizia il processo, un processo duro, come tutti i processi di stupro. E un processo, come dire, che coinvolge molto anche il movimento femminista, perché tantissime compagne seguono il processo e per dare solidarietà a Marinella. All'interno di questo processo, ovviamente, la cosa ancora non ci stupisce, purtroppo le compagne, la stessa Marinella, i parenti di Marinella vengono ripetutamente insultati, minacciati, insomma diciamo che non è stato un contesto semplicissimo da seguire, e questo un po' un quadro sta veramente nella norma. Sta nella norma, un quadro super generale, perché ora vorremmo chiamare, insomma chiamiamo una compagna che tutta questa vicenda l'ha seguita, dalla solidarietà allo stupro, a quello che ne è avvenuto dopo, ai cortei in solidarietà notturni a Centocelle, per gli stupratori ricordiamo erano di Centocelle. E tra l'altro voglio segnalarvi, per ripercorrere tutta la vicenda che ora racconteremo, ma se ve la volete anche guardare sul sito leribellule.noblogs.org c'è il libretto della memoria e il ricordo a Marinella, dove c'è tutta la vicenda raccontata. E allora direi, mettiamo un attimo musica e sentiamo la compagna. Ci penso. penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata, l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza resta in una mano. E adesso che non rispondi, fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero. E tu da lì mi sentirai se grido. Io non ho paura, io non ho paura, io non ho paura, io non ho. Il tempo non ti aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente. Ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto. Ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure. Ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti. Matura il frutto, il tuo dolore non farà più male. E adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato, ed io da qui ti sentirò vicino. Fosse clandestino, fermare gli occhi in un istante e poi sparare in mezzo al cielo il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena, abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno. Quindi, come preannunciato, abbiamo in onda una compagna che tra l'altro ha fatto anche parte della storia di questa radio, col sussurro di Cassandra. Ciao, benvenuta. Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Ho sentito la prima parte della trasmissione e chiaramente ho molto apprezzato, diciamo, il fatto che a parte la dovuta memoria nei confronti di Marinella, della sua storia, la cosa è perfettamente attualizzabile, sì, secondo me, no? Perché proprio di recente, ultimi, ma dopo una serie di violenze, stupri commessi sulle donne, abbiamo avuto dei fatti molto eclatanti che ci dicono che poi all'ultima, a distanza di 30 anni esatti, molte poche cose sono cambiate, no? Vediamo ancora dei soggetti deboli, come debole fu Marinella, essere vittime di uomini che addirittura poi l'ammazzano, no? Di fronte al loro rifiuto di approcci sessuali. Mi riferisco ai casi eclatanti di Milano, di Macerata, ma anche ai fatti di Firenze, no? Come commentavamo anche con te prima. Ragazze che, sebbene abbiano subito uno stupro, poi da parte ancora più grave di carabinieri che l'avrebbero dovuto difendere, perché loro poi, poverine, pensavano, no? Gli era stato detto che fidasse solamente di polizia, carabinieri, che le avrebbero protette, no? Almeno quello che è uscito fuori sui media. Sì. Di fatto si trovano poi negli interrogatori a essere loro sottoposte a un'indagine, no? Gli si chiede se gli piace la divisa, perché poi, insomma, nell'immaginario comune sta divisa c'ha chissà quale fascino, no? e perché loro stavano in giro e come erano vestite, insomma le solite cose che portano sempre poi le donne sul banco degli imputati. Per questo il processo di Marinella fu una cosa abnorme, mostruosa da certi punti di vista, no? Perché come tu bene ricordavi, questi tre, che poi forse erano cinque, perché Marinella disse in una delle sue dichiarazioni che al 70% si trattava di cinque persone, sì. Però tre furono prese in flagrante addirittura da un brigadiere dei carabinieri che stava, appunto, come tu hai ricordato, insieme a due amici così a camminare per nei dintorni di Piazza Navona, Piazza dei Massimi per la precisione, e quindi questi vennero arrestati perché colti in flagrante subito la sera stessa, che era appunto la sera tra il 6 e il 7 marzo. Il 15 marzo ci fu la prima udienza di questo processo. Marinella fu patrocinata da Tina Lagostena Bassi, che purtroppo da vari anni oramai non c'è più, sì. Ma era intanto una grande giurista, una grande avvocata, e ha difeso più e più volte donne che erano state vittime di violenze e di soprusi. Chiaramente non solo lei, ma voglio ricordare anche le tante altre avvocate che si sono insieme a lei prodigate in queste difese. E praticamente il 15 marzo, a questa prima udienza, si raccolgono le deposizioni di Marinella e di questi tre stupratori, i quali hanno dato più e più volte versioni contraddittorie, contrastanti, diverse l'una dall'altra. Infatti appena furono arrestati due rimasero in silenzio, il terzo, se lecito posso anche dire chi, no? Sandro Ramoni ammise di aver avuto un rapporto sessuale con Marinella, mentre i suoi amici la temevano. E gli altri due appunto se ne stanno zitti. Questo poi vengono di nuovo interrogati prima del 15 marzo dal sostituto procuratore della Repubblica, che convalida l'arresto per tutti e tre, e qui ancora cambiano la loro versione dicendo di essere stati adescati loro da Marinella. Però pure questo è un'evidente falsità, in quanto poi tutte e tre danno versioni diverse delle modalità con cui si è svolto questo presunto adescamento. Pure Marinella viene interrogata dal sostituto procuratore, però chiaramente mostra i segni di un evidente stato confusionale, certo. anche perché, come tu ricordavi, è esposto denuncia subito appena dopo accaduto il fatto, anche perché il brigadiere dei carabinieri insomma raccoglie la sua deposizione subito, chiaramente lei sapeva benissimo, infatti subito dopo si, diciamo tra virgolette, pente, no, di questo, perché sa bene che andrà lei incontro a un massacro giudiziario, sì, mediatico, eccetera eccetera. E infatti uscì fuori, no, il fatto che lei la sera era stata in un bar e non aveva pagato il conto, sì, che lei, insomma, sono uscite anche delle cose, sì, sulla sua vita personale. Sì, e infatti già da questo interrogatorio col sostituto procuratore si profila quello che poi sarà tutto lo schifo del processo, no? Cioè si comincia in una maniera illegittima, non pertinente ai fatti, a indagare sulla vita di lei, su chi è lei, e lei in fondo chi è? Poi una sbandata, sì, alcolizzata, una tossicodipendente, e questo sarà poi il perno su cui la difesa di questi tre baserà tutti i suoi interrogatori, le arringhe eccetera. Comunque il 15 marzo diciamo che la prima udienza si conclude abbastanza brevemente, in breve insomma, e si rimanda tutto quanto al 22 marzo. E 22 marzo nell'aula del processo sono presenti le associazioni delle donne che il 15 avevano chiesto di essere accolte come parte civile, ma la cosa non era stata concessa. Quindi il 22 marzo, a questa seconda udienza, sono presenti numerosissime donne appartenenti alle più disparate associazioni, compagne anche, diciamo, che da sole erano venute, sì, a dare sostegno, noi compagne del movimento, perché in quel momento, appunto, come tu ricordavi, insieme ad alcune compagne conducevamo il sussurro di Cassandra. E un momento bellissimo, questa trasmissione era un po' uscita fuori, diciamo, dai binari di una trasmissione settimanale, perché essendoci un po' in quegli anni, parlo dell'85-86 quando questa trasmissione nacque, c'era un po' un desiderio da parte di tutte le compagne, le donne, di trovare un momento d'aggregazione loro, un momento di autonomia anche rispetto al movimento cui la maggior parte di noi apparteneva poi, no? Quindi diciamo che la trasmissione si era allargata, vedeva la partecipazione di compagne di tantissimi centri sociali romani, il Sisto, anche alcune compagne del Forte, che dirti, le compagne dei Castelli, insomma le universitarie che pure partecipavano molto numerose, e si era creato anche un coordinamento romano di compagne che appunto contava su un numero molto sostanzioso, tanto che poi, come diremo più avanti, organizzammo proprio una manifestazione noi compagne a Centocelle, dove andammo numerose di notte, perché poi dopo questo apre pure il discorso di riprendersi la notte, e vabbè, però non mi voglio troppo allargare, se no incasino troppo. Okay. E comunque, appunto, il 22, dicevo, insieme alle tante donne, compagne, femministe presenti al processo, c'erano purtroppo presenti anche una serie di amici e di sostenitori di questi tre, che accompagnavano con urla di dissenso, derisione, di scherno nelle deposizioni di Marinella, che sfido io, insomma, necessariamente poverina stava vivendo un momento di estremo disagio, perché all'ultimo sentiva che l'indice era puntato dentro di lei, no? E perché appunto era già dall'inizio era stata consapevole di questo. Yes. E dopo queste deposizioni di Marinella e dei tre che ancora continuano a dare versioni tra loro contrastanti, dimostrano una forte insicurezza, eccetera eccetera, l'udienza viene rimandata al 24, che sarà poi anche il giorno della sentenza. E stavolta non vi dico, insomma, mezzo Centocelle stava lì a far tifo, no, per questi tre, e le tante donne presenti cominciarono a essere oggetto, insieme a Marinella, di provocazione, di urla, insulti, e per cui le donne chiesero che questi fossero allontanati dall'aula. Per tutta risposta tutti furono allontanati dall'aula, l'aula fu sgombrata, e nel parapiglia che seguì a uscire fuori dall'aula, alcune di noi presero anche, furono malmenate, insomma, presero pure le botte da questi. E la difesa incentrò appunto tutto il suo dibattimento sul fatto che questi erano intanto tre bravi ragazzi, censurati, che mansueti, quando erano arrivati i carabinieri quella sera si erano fatti arrestare senza opporre resistenza, e che all'ultimo erano vittime del clamore che il caso aveva destato anche sui mass media, no? Perché poi tutti i giornali chiaramente parlarono di questo fatto, tanti sostennero Marinella, alcuni come gli fece del processo a lei, come sempre capita, insomma. Però li definirono appunto i loro tre avvocati come ragazzi che bravi, che avevano fatto una bravata, insomma, uscendo, sì, di sera, così è, e che però adesso basta, insomma, no? La stavano pagando troppo cara questa bravata. La stavano pagando troppo esagerata rispetto a quello che era accaduto, insomma. Addirittura, penso fatto unico nella storia della giustizia italiana, le parole del carabiniere furono messe in dubbio, no? Sì. Il carabiniere stesso, che li aveva colti in flagrante, venne praticamente, divenne pure lui inaccusato, come se avesse forzato la mano per far falsa denuncia a Marinella di un fatto che poi in realtà non era così come veniva descritto. E quindi tutto quanto si incentra sul fatto di chi è Marinella. Marinella è una persona inattendibile, una tossicodipendente che già de suo sta fuori, no? Sì. Un avvocato addirittura afferma: noi possiamo compiangere la vita sbandata, squallida, miserevole della cammarata, ma questa donna non ha il diritto di farci credere che la sua inesperienza di vita le ha impedito di reagire adeguatamente. Infatti, una ragazza che era minuta, piccolina, di fronte forse 5, sicuramente 3 ragazzi d'età pure loro tra i 25 e i 30 anni, che insomma, vabbè. E comunque appunto tutto quanto si incentrò su questo, e però i giudici ritennero inverosimile la, diciamo, la linea difensiva di questi, e confermarono praticamente tutte e 3 i capi d'accusa, che erano violenza sessuale di gruppo e lesioni. E perché sì, oltre al fatto dello stato confusionale, bisogna dire che Marinella era stata trovata sanguinante e che lei stessa poi disse che aveva avuto questo sanguinamento per tutta la nottata, per tutta una giornata, insomma, a seguito dello stupro subito. E quindi diciamo che questi 3 accuse, violenza sessuale di gruppo, lesioni, atti osceni in luogo pubblico, vengono in pratica accolti dai giudici di primo grado, e i 3 vengono condannati, mi pare, a 4 anni e mezzo. E 8 mesi, mi sa. Qualcosa, sì, giusto, esatto. E tutto viene rimandato poi all'appello, che si svolgerà la metà di novembre dell'88. Intanto chiaramente si susseguirono manifestazioni da parte di tutte le associazioni di donne, delle manifestazioni molto partecipate, che tornarono appunto, come dicevi anche tu, a la notte per strada, no? Riprendiamoci la notte, in poche parole, la libertà delle donne di poter uscire a qualunque ora senza dover subire violenze di nessun genere. Sì. E nel processo d'appello questi 3 tomi da avvocati sostennero che praticamente il primo grado era stato, il giudizio di primo grado era stato condizionato dal clamore, dalla risonanza che questo fatto aveva avuto sui mass media, che chiedevano insomma una punizione esemplare per questi, e che perciò sti poveri 3 capi espiatori dovevano subire una condanna smisurata rispetto a quello che era successo, no? Al centro di tutto quanto c'è sta ancora Marinella, la sua vita che è passata al setaccio. Ma quello che fu ancora più mostruoso, secondo me, più terribile, fu che per ottenere un'ulteriore, una sostanziale riduzione di pena ai 4 anni e 8 mesi che questi avevano avuto, si mise insomma sulla bilancia, da un lato questi 3 bravi ragazzi incensurati, mansueti di fronte ai carabinieri, e dall'altro una sbandata. Sì, una sbandata, una tossicodipendente, una bugiarda, sì, all'ultimo, no? Perché questa sosteneva cose che non erano vere, una che già de suo non connetteva, in poche parole, per cui tutto il suo disagio negli interrogatori, le sue incertezze non erano da attribuirsi allo shock che aveva subito, ma erano da attribuirsi a un preesistente stato di confusione dovuto a che all'alcol e alla droga che lei assumeva. E oltretutto proprio questo, no? Rendeva la vittima di poco valore, sì, certo. Perché comunque una donna per bene non va in giro di notte a provocare i bravi ragazzi. certo. Dopo aver pure fregato una consumazione a un bar, no, eccetera eccetera. E quindi dice un conto appunto se fosse stata violentata o una più piccola, una minorenne, e comunque la storia ci dimostra che non è così poi. Infatti, e quindi i giudici diciamo che accettano quasi appieno le motivazioni balorde di questi tre avvocati, no? Infatti si ridimensiona il reato perché all'ultimo è stato compiuto solo da uno di loro. La violenza appunto era stata piccola, di piccola misura insomma, perché lei si era difesa scarsamente, per cui se quella si difende scarsamente io non è che devo esercitare una violenza più di tanto, certo. No? Poi lei non veniva praticamente retta, tenuta da questi due, ma loro, il che sembrerebbe scagionante ma secondo me è ancora più grave, no? Veniva sorretta da questi perché lei non si reggeva in piedi, mentre uno dei loro la violentava, cioè una cosa che non è affatto, no, una diminuzione, no, un aggravante in caso, ecco, è in caso un aggravante. Però loro poverini avevano frainteso l'atteggiamento di Marinella e soltanto all'ultimo, nel momento proprio clou, avevano capito che lei era dissenziente, ma oramai purtroppo, cara mia, indietro non si poteva tornare, ormai siamo là, certo. E quindi diciamo l'aver accolto queste tesi della difesa portò i giudici a ridurre la pena da 4 anni e 8 mesi a un paio di anni. Venne tolta l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, e poiché erano 3 gran bravi ragazzi, incensurati, lavoratori, amati da tutto il quartiere, vennero subito scarcerati il 15 novembre stesso. E a quel punto che succede? A quel punto succede chiaramente un'altra volta il pandemonio, perché l'aula vede le grida di gioia, di soddisfazione, gli abbracci da parte di amici, amiche, perché purtroppo in questa storia dobbiamo dire che anche molte donne sostenevano questi tre, erano venuti dal quartiere in cui loro abitavano, 100 celle, a sostenere la cosa. Le donne, le compagne chiaramente fanno un casino per l'ingiustizia della cosa, e la cosa finisce lì, perché poi lì pure spintoni, insomma di tutto e di più. E quello ancora più tragico è che 3-4 giorni dopo Marinella è morta. Molti dissero a causa dell'AIDS, però di fatto Marinella, a quanto affermavano anche i medici, non era in uno stato di salute tanto grave da dover morire pochi mesi dopo e 4 giorni dopo la fine del processo. Chiaramente Marinella è stata ammazzata da tutto quello a cui è stata sottoposta, e che lei era consapevole a chi sarebbe andata incontro. Quello che vorrei un attimo sottolineare pure è che questa donna, definita dagli avvocati una bugiarda, una sbandata, la metà storta dell'uomo, no? Mi ricordo che girava tanto sta frase, perché uno di questi tre avvocati, e dopo aver infangato Marinella in ogni maniera, concluse dicendo che Marinella era una bugiarda, che tutte le donne sono bugiarde, poi tra l'altro, no? Conseguenza abbastanza logica. Scusami, sono un attimo persa. E niente, che lui disse che Marinella non era l'altra metà del cielo, era la parte distorta dell'uomo. Sì. Quindi Marinella è stata, però diciamo, nonostante tutto quello che ha subito, più volte Marinella ha dato prova che nonostante la sua vita, che lei stessa, perché poi veniva intervistata, inseguita, eccetera, eccetera, nonostante la vita di sofferenze, di violenza che aveva subito, tanto che affermò che praticamente quando vivi nella violenza arriva un momento in cui neanche la riesci più a distinguere, no? E però Marinella dimostrò una grande umanità, perché nel momento stesso che era accaduto il fatto e che lei sporse denuncia e che piangendo e sanguinante diceva di essere stata violentata, mi hanno violentato, arrestato, mi hanno stuprato, arrestateli, quando li vide salire sulla macchina dei carabinieri chiese che cosa sarebbe successo a loro, e loro, cioè in questo secondo me lei dimostrò ancora un afflato umano anche rispetto a chi l'aveva massacrata, no? Perché si poneva il problema di quello che sarebbe toccato a questi tre bastardi, concedetemi di dirlo, certo. Ecco. Ma e... poi un'altra, mi senti? Sì, sì. No, poi un'altra cosa, insomma, che un po' trapela, insomma, usciva dal tuo racconto, e anche come sicuramente l'attacco alla fragilità di Marinella e tutte le condizioni che una donna deve subire al momento di un processo per stupro. Ma questi avvocati, a quello che ricordo, insomma, non so se me lo puoi confermare, cioè particolarmente attaccarono il movimento delle donne che la sosteneva, no? Come dire, c'era un afflato maschilista, arrogante, in cui non solo Marinella ma tutte le donne erano così, come se fosse normale che una donna venisse violentata, come se fosse normale che una donna che gira per le strade di notte, cioè è responsabilità sua, no? Quindi una colpevolizzazione, si è giocato molto anche su questo piano, no? Giri di notte, come deve essere. E devo dire, il processo d'appello in qualche modo ha confermato questa mentalità maschilista, patriarcale, insomma, che ci voleva chiusa in casa. Sì, infatti uno dei giudici ad un certo punto, alla ringa di uno di questi tre avvocati che era stato particolarmente, che aveva infierito particolarmente sia su Marinella che su tutte le donne, perché appunto lui trasse così, no, come dire, il corollario che Marinella era una bugiarda, ma il fatto è che tutte le donne erano così. E tant'è che il giudice, addirittura il giudice, no? Insomma, accusò sta avvocato di maschilismo, di patriarcalismo, e lui disse no, giudice, la cosa è scientifica. Infatti, cioè, era provato scientificamente che le donne erano bugiarde, forse se rifaceva, che ne so, alle teorie dell'Ombroso lui. Sicuramente. Minimo, ecco. E niente, dicevo quello che oltretutto Marinella ebbe anche a dire, che per la prima volta da un fatto tanto atroce della sua vita era riuscita a trovare intorno a sé un sostegno, una rete di donne che l'appoggiava, che la sosteneva, forse prima e unica volta nella sua vita, però purtroppo troppo brevemente, perché poi è stato più forte il massacro che ha subito e che l'ha stroncata, ecco. Certo, anche questa forza delle donne che si uniscono e che seguono i processi e che si danno, no, coraggio l'una con l'altra, ovviamente fa paura e va spezzata, quindi forse infatti anche questa sentenza era esemplare per tutte, era un monito per tutte. Ed è molto importante, secondo me, continuare a seguire questo tipo di processi, perché poi, ecco, sappiamo bene come vengono articolati. La difesa non è che è poi così brava, così originale, no? Perché comincia a indagare, scavare nella vita della vittima, diciamo, no? E qualche cosa gira, gira, scava, scava, ce la trovi, e c'ha avuto magari più di un fidanzato, e magari la sera andava in giro con le amiche, e magari si vestiva così, e magari era colà, e tant'è che si devia, diciamo, no? da quello che dovrebbe essere l'itere di un processo, che analizza i fatti, compie indagini e punisce i colpevoli, e in realtà poi non è mai così, perché comunque sia gli uomini che compiono questo tipo di cose bene o male riescono ad avere delle attenuanti, delle giustificazioni, delle motivazioni che li portano quasi sempre poi a non pagare, no? Non che noi se sia così, diciamo, giustizialiste, assertrici, infervorate della giustizia, no, no, o della galera, però comunque sia rimangono sempre grosso modo impuniti o con, sì, pene talmente irrilevanti che avrebbe beccato di più Marinella che ne aveva pagato il conto al bar che no uno dei loro che compie questo tipo di reati, insomma. Ma invece ti volevo chiedere anche questa tutta questa vicenda poi ebbe anche degli strascichi all'interno invece del movimento romano o del movimento tutto, sì, insomma, cioè non si è chiusa là, il movimento come ha reagito rispetto? Purtroppo sì, ebbe degli strascichi, intanto prima da che ci sono ancora adesso. Ti dico, guarda, dopo 30 anni siamo ancora qua con quegli strascichi. Ultimamente insomma sto un po' più distante, però comunque sia immagino e ho notizie insomma di come possano ancora andare le cose. T'ho detto, noi mettemmo in piedi come compagne del movimento romane, con le universitarie, con le compagne dei centri sociali, con le compagne anche che prima ho dimenticato di citare, Spinaceto, che erano pure loro molto numerose, che avevano occupato uno spazio sul loro territorio a Spinaceto, una manifestazione molto grande, una sera proprio a Centocelle, almeno a Tana del Lupo, no? E chiaramente eravamo molte e numerose, però trovammo ad aspettarci praticamente quasi tutto il quartiere, chi non stava per strada stava in dei, dalle finestre, no? E fummo oggetto proprio di violenze, non solo verbali ma anche fisiche, tanto che una compagna di Spinaceto venne colpita con un pugno in faccia e riportò insomma qualche danno, mi sembra, al naso. E vabbè, come questo diciamo è quello che uno si poteva aspettare, perché al processo avevano già dato prova di questo. Quello che scatenò un po' poi tutta una serie di dibattiti, di scontri all'interno del movimento fu in occasione di un concerto che si tenne al Forte Prenestino, credo nell'89, 90. Ora, è nel 90, ma non mi ricordo con, sì, precisione. A questo concerto erano presenti tantissimi compagni, chiaramente, e anche tante tante compagne. E tra, diciamo, al concerto c'erano anche la banda Bassotti, banda dei musicisti conosciuta un po' abbastanza bene da tutti. E ad un certo punto entrarono al Forte alcuni personaggi che furono riconosciuti essere amici e sostenitori di questi tre tipi al processo, e in particolare anche quelli che si erano ben messi in evidenza negli insulti, spintonamenti alle compagne. E le compagne chiesero che questi non fossero fatti entrare, e lì nacque già un mezzo pandemonio dentro al Forte, perché le compagne che chiedevano l'allontanamento di questi vennero ritenute un po' delle esagerate, esagitate anche, che all'ultimo questi che avevano preso posizione a fianco degli stupratori in realtà erano dei proletari che sbagliano, che quindi all'interno del centro, il centro sociale non li può allontanare, no? Deve accogliere, e che questi molto probabilmente in un percorso rieducativo all'interno del centro sociale possono prendere distanze da fatti ed episodi del genere. Chiaramente questo fece imbestialire a maggior ragione le compagne, che però purtroppo si trovarono in netta minoranza in quella situazione. Pochi compagni, ricordo con molto i compagni del Carlos Fonseca, i quali presero posizione a favore delle compagne, perché tra l'altro ci dissero poi in successivi incontri che avemmo con loro che li avevano conosciuti in Nicaragua e che già lì insomma avevano avuto sentore che insomma non andavano, che non erano personaggi molto affidabili. La cosa però dal Forte chiaramente non finì lì, no? come un sassetto buttato dentro allo stagno, creò discussioni e dibattiti all'interno di tutte le realtà territoriali, perché era nato questo, diciamo, sto dibattito, sì, perché chiaramente poi che cosa le compagne obiettarono? Obiettarono come non è permesso di entrare in centro sociale a un fascista, a dei fascisti, perché appunto non è che il centro sociale crede nel processo riabilitativo, eccetera, eccetera, perché questi sono considerati migliori, diciamo, tra virgolette, no, dei fascisti. Quando io personalmente faccio una considerazione, tre o addirittura cinque uomini, perché se parla di uomini tra i 25 e i 30 anni, che acchiappano una ragazza piccola, minuta, sola, indifesa e in una condizione di estrema fragilità, la viano, la costringono addosso a un muro, la violentano, hanno una mentalità che è diversa da quella di un fascista. No. Una mentalità tanto prevaricatrice, tanto violenta, tanto, diciamo, di violenza di gruppo, di branco, no? Certo. Non mi sembra che non possa essere definita una mentalità fascista, al di là dell'appartenenza a uno, a un partito, a un'associazione, no? Perché poi fascismo non è solo, che ne so, essere un sostenitore di Casa Pound o dei Fratelli d'Italia. Il fascismo è una forma mentis, e secondo noi questi non erano tanto migliori dei fascisti. E i dibattiti invece che poi ci furono all'interno dei vari centri sociali e anche poi all'interno della radio, perché la cosa aveva coinvolto poi delle compagne che lavoravano all'interno della radio, che furono chiamate da alcuni compagni a un chiarimento di questo atteggiamento che si era tenuto, senza considerare tutte le per strada, no? E a via dei Volsci chi ti incontrava, oh, ma che avete fatto, ma che avete combinato, che avete combinato, è veramente una frase, vabbè, voglio sottolinearla, che avete combinato, sì. Ma che vi è saltato in testa, ma quelli così, ma così colà, ma i bassotti non è come dite voi, i bassotti sotto, sopra, no? Cioè era vi dico una palla, scusate il termine, continua, perché dovunque ti avvicinavi che te vedevano te venivano sotto a chiedere spiegazioni, giustificazioni, e che a quella dovete trattenere perché quella è matta, quella ha fatto così, quella è zompata addosso a quell'altro colà, capito? E tutta sta cosa qui. E quello anche, diciamo, che più ci ferì allora fu il fatto che tante compagne si fecero un po', diciamo, abbindolà da sti ragionamenti e si schierarono dalla parte dei maschi, dei compagni maschi, no? Mi ricordo pure all'interno della radio ci fu una riunione di redazione che non si vedeva più, penso, da millenni dentro la radio, una presenza foltissima di persone, di gente, di donne che pure avevano partecipato pochissimo, addirittura niente alla radio, ma che in quell'occasione erano venute per sostenere, insomma, in certo qual modo le tesi dei loro compagni. E vennero anche quelli del Forte che si presentarono insieme a una compagna loro, che si presentarono con un ragazzo nero, come quasi a volere dimostrare la loro apertura mentale. Sì, c'ho pure l'amico nero. Sì, cioè, sì. E comunque, insomma, pure lì quello che poi venne fuori, che cosa era? Quello che giustamente ho letto forse su un libricino, non so, su qualche trasmissione della radio, quello che venne fuori che la lotta, diciamo, di classe, questo ho trovato molto, mi trova molto d'accordo, la lotta di classe, la lotta antifascista viene prima della violenza sulle donne. Ma tuttora, guarda. Ecco, senza considerare che non può esserci antifascismo dove non c'è de pari passo, con la stessa identica dignità, perché non voglio dare più dignità a una cosa o all'altra, la lotta contro la violenza sulle donne, di qualsiasi genere essa sia, da quella sessuale a quella psicologica a quella verbale. Dove c'è sessismo, secondo me non ci può essere sincero, autentico, vero antifascismo. Certo, e non abbiamo neanche un cambiamento dentro la nostra società. Sicuramente, insomma, questo tema, diciamo che sì. Infatti diciamo che la memoria di Marinella, dovuta a lei, dovuta a tutte le donne che come lei hanno subito questo, non è una pura commemorazione, no? Perché non è una commemorazione di Marinella, è un ricordo dovuto a lei e a tutte le altre donne che non devono cadere nel dimenticatoio, che anche le compagne più giovani che non hanno vissuto queste cose perché a quell'epoca ne erano manco nate, sappiano che questo tipo di cose si trascinano da 30 anni e ancora sono presenti nella nostra realtà. Ancora oggi i processi che si fanno, come abbiamo detto e ridetto stasera, in questi casi di violenza, vedono al centro le donne. Pensa insomma a queste due ragazze americane che comunque sia sono in una posizione diversa, già un po' migliore in certo qual modo, no? Le ragazze, le donne fragili come Marinella, meno anche socialmente più svantaggiate. Queste due ragazze americane, due studentesse, due per bene, appartenenti insomma a famiglie tranquille in America, che qui trovano anche il sostegno delle strutture, no? Che ci sono per le persone che subiscono reati all'estero, quindi loro hanno anche il sostegno del consolato, dell'ambasciata, eccetera, eccetera. Ancora ci si permette di dire: ma a voi vi piace la divisa? Sì. Siete attratte dagli uomini in divisa? Guarda, penso che se vogliamo continuare a elencare episodi potremmo fare veramente una diretta lunga 24 ore, perché infatti, ce n'è una al giorno. Infatti diciamo che il tempo è un po' tiranno, purtroppo dobbiamo un po' iniziare a chiudere questa discussione. Ma magari ci ha fatto piacere, insomma, no, assolutamente. Ricordare sicuramente Marinella, ma tutto quello che intorno a un processo di stupro ancora oggi, insomma, siamo nel 2018, dopo 30 anni non è molto differente quello che ci raccontavi, ma pure quello che si legge da quello che usciva, veniva raccontato, come venivano presentate le donne 30 anni fa, insomma, quindi tanto dobbiamo fare. Certo. Poi magari avremo modo di confrontarci anche su altre forme appunto di violenza, abusi, pure sui posti di lavoro, pure se non sono stupri, che ultimamente mi sembra piano piano stanno venendo alla luce. Bisogna vedere poi quanto riescono a sedimentare un cambiamento reale. Sì, infatti noi, guarda, ti ringraziamo veramente, soprattutto perché la memoria storica, come sappiamo, è parte fondamentale anche della nostra storia politica. E non so, ti ringraziamo veramente tanto per essere stata con noi, aver condiviso con noi. Ti ringrazio, mi ha fatto molto piacere condividere con voi questo ricordo. E insomma è stato anche un piacere essere stata contattata da voi compagni per lavorare insieme a voi su sta cosa. Ecco. Noi siamo sempre qui, la radio è qui, lo sai dov'è, quindi quando vuoi puoi intervenire. Sì, ci vieni anche a trovare. Sì, facciamo insomma che sia solo una rondina, sì. Fa primavera, come si dice. Vabbè. Ti ringraziamo, ciao, grazie. Allora. Buona serata. Ciao. A tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.